Salvadanaio. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questo appuntamento di Salvadanaio di inizio settimana, 16 aprile 2012. Oggi non solo è lunedì e piove, ma pure di fisco parliamo da qui fino alle 13, tanto per rincarare la dose. Però in realtà è necessario e soprattutto è utile affrontare questo argomento, perché si avvicina una scadenza importante per imprese, professionisti, ma anche per commercianti e negozianti, cioè quella relativa allo spesometro. Ed è questo il tema di oggi, lo spesometro, uno strumento di cui tra gli altri si avvale l'Agenzia delle Entrate per incrociare i dati e individuare i furbetti, gli evasori fiscali, quelli che pur dichiarando poco vivono in ampi agi e ampie comodità. C'è una scadenza, dicevo, quella del 30 aprile, data entro la quale occorre segnalare quei cittadini che hanno effettuato spese di lusso, ovvero superiore ai 3.000 euro con fattura o superiore ai 3.600 euro con lo scontrino. E di spesometro e redditometro si occupa oggi anche il Sole 24 Ore, con una guida che trovate in edicola all'interno di Norme Tributi, e in questa guida ci sono tutte le informazioni utili per le imprese, i professionisti e i negoziati che devono inoltrare questa comunicazione, e anche per i contribuenti che potrebbero essere oggetto di contestazione da parte del fisco. All'interno della guida anche le risposte alle domande più frequenti, domande che potete porre anche oggi qui in diretta a Salvadanaio al numero verde 800 24 00 24 oppure scrivendo un sms al 349 238 6666. Il buongiorno ai nostri ospiti, ha curato la guida oggi in edicola Giovanni Parente del Sole 24 Ore, ben trovato. Buongiorno Roberti, a tutti gli ascoltatori. E vi ha collaborato Benedetto Santacroce, che è esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore e professore di diritto tributario e comunitario presso l'Università Marconi di Roma. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Ricordo i numeri 800 24 00 24 per le telefonate, 349 238 6666 per gli sms. Sentiamo la nostra scheda. Il contrasto all'evasione fiscale in Italia è un'impresa difficile, che comporta il dispendio di molte energie e una continua ricerca di sistemi sempre più efficaci e precisi nell'individuare chi non rispetta le regole, agendo sempre più duramente contro il sommerso. Tra gli strumenti su cui il fisco sta facendo maggiormente affidamento, con aggiornamenti e novità, ci sono il redditometro e lo spesometro. Lenti di ingrandimento che permettono di misurare la capacità di spesa dei contribuenti partendo dal reddito, o viceversa, di stabilire il reddito sulla base delle spese sostenute. Il redditometro è in sostanza l'accertamento sintetico del reddito dei contribuenti. Lo spesometro mette in evidenza i pagamenti più sostanziosi al di sopra dei 3.600 euro e al di sopra dei 3.000 euro in caso di emissione di fattura, consentendo al fisco di controllare le spese effettuate dai singoli cittadini e attivare gli accertamenti sui potenziali evasori. Dalle automobili ai viaggi ai gioielli, il cervellone mette a confronto le informazioni sulle spese con i redditi dichiarati. In caso di scostamenti sospetti tra i due dati, verranno attivati gli accertamenti. Due fronti per combattere la stessa battaglia, insomma, due categorie di dati da incrociare per verificarne la coerenza. Ma anche la paura, per il contribuente, di trovarsi schiacciato in un errore e pagarne in buona fede le conseguenze. Per questo diventa fondamentale conservare con molta cura la documentazione relativa alle spese ed essere preparati a difendere la propria posizione. Giovanni Parente, prima di rivolgerci ai contribuenti, pensiamo ai commercianti, perché nel radar del fisco entra anche lo shopping, come abbiamo sentito, e da quest'anno non soltanto le imprese professionisti, ma anche i negozianti, perfino i venditori porta a porta, sono tenuti a comunicare i dati dei propri clienti, ovviamente in relazione ad acquisti di lusso, ad acquisti di una certa importanza. Quindi i negozianti devono conoscere i dati dei loro clienti adesso. Esatto, in realtà li devono conoscere dal 1 luglio 2011, perché la comunicazione che verrà fatta entro fine mese riguarda proprio tutte le operazioni sopra soglia, poi spiegheremo qual è la soglia, effettuate nel secondo semestre dello scorso anno. È la prima vera chiamata per i commercianti al dettaglio, perché insomma l'adempimento nella sua prima versione ha riguardato soltanto le operazioni tra partite IVA, quindi commercianti con commercianti, quindi grossisti, dettaglianti, imprese e professionisti. acquisti. Adesso invece il commerciante al dettaglio deve segnalare gli acquisti effettuati dai clienti pari o superiori ai 3.600 euro. E come fa a segnalarlo? Insomma, ci sarà una procedura informatica attraverso i canali dell'Agenzia delle Entrate, in cui, semplificando al massimo, dovrà inserire sia la data dell'operazione, sia l'importo, sia il codice fiscale del cliente che dovrà aver acquisito ovviamente al momento della transazione. Quindi questa è la prima vera scadenza per questo adempimento. Attenzione, vanno segnalate anche le operazioni già tracciate, tra virgolette, quindi pagate con assegno e con bonifico bancario, mentre invece non sarà il commerciante a dover segnalare le operazioni pagate con carta di credito o bancomat. Anche qui c'è una piccola difficoltà, perché bisognerà assicurarsi che la carta di credito o il bancomat sia stata emesso da un istituto finanziario italiano. Quindi che sarà poi lui a trasmettere i dati. Se non fosse stata trasmessa da un istituto finanziario italiano, a quel punto invece il commerciante ha a dover segnalare quell'operazione. Sempre invece, appunto, per i pagamenti effettuati con carta di credito e bancomat, gli intermediari comunicheranno loro attraverso il loro canale differenziato, comunque sempre entro il 30 aprile. Hanno quindi questo onere entro fine mese. Nel caso questa data non venga rispettata, scattano subito le sanzioni? Allora, possono essere applicate sanzioni da un minimo di 258 euro a massimo di 2.065 euro, però anche qui c'è un margine di flessibilità. Comunque si possono rivedere le comunicazioni inviate e rimediare ad eventuali errori o omissioni entro il 31 maggio. E senza sanzioni. E poi comunque c'è la procedura del ravvedimento operoso, insomma, che consente anche di sanare le eventuali omissioni successivamente. Non c'è il rischio che a questo punto convenga a tutte e due, cioè sia al cliente che al negoziante, non emettere lo scontrino? Allora, è un rischio concreto, non ci nascondiamo dietro un dito. Anche in alcune domande che stanno arrivando al forum online aperto fino alle 18 di oggi, fammelo ricordarvi, a www.ilsole24ore.com/spesometro, si sottolineava proprio questa lacuna fondamentale dello strumento, cioè vale a dire che commerciante e acquirente si mettono d'accordo, si paga in nero, tutti e due hanno un vantaggio. Però qui bisogna fare un ragionamento. Si parla tanto di lotta all'evasione in questi mesi, è diventato un tema dominante, anche perché, insomma, i sacrifici a cui sono stati chiamati i contribuenti italiani dal Salva Italia in poi sono enormi in termini proprio di maggior gettito di tasse richieste. Oggi abbiamo fatto anche un servizio su Sole 24 Ore. Se si vuole puntare realmente ad abbattere l'evasione fiscale, è necessario che contribuenti e operatori commerciali si mettano d'accordo per procedure trasparenti e limpide, anche perché se io acquisto un bene di valore superiore ai 3.600 euro, ma ho i redditi o comunque mi è stato prestato del denaro per poterlo fare, non vedo di che cosa debba aver paura, insomma, ecco questo. Professor Santa Croce, lei cosa ne pensa? Ma allora, il tema è più che altro degli incroci, no? Possibili, nel senso che è evidente che la forma più tipica di evasione è rappresentata dal fatto che nessuno dei due, tutti e due abbiano un interesse, no? Quindi l'interesse contrapposto sarebbe sempre interessante. Però è chiaro che l'utilizzo del contante, l'utilizzo di strumenti che poi in qualche modo vanno a coinvolgere questa situazione, produce alla fine negli incroci generali una difficoltà nel coprire in modo eccessivo ovviamente acquisti in nero e vendite in nero. Quindi alla fine, voglio dire, se vogliamo dire, se gli incroci e le determinazioni delle banche dati diventano sempre più penetranti in ragione della posizione dei singoli contribuenti e in particolar modo delle persone fisiche, poi diventa un po' una coperta corta, cioè tu spendi di più in termini di nero e quindi automaticamente a un certo punto non potresti sostenere nemmeno la tua vita, e quindi esattamente in quel momento sul piano della determinazione poi del reddito della persona fisica che va a spendere in nero, evidentemente alla fine si potrebbe trovare comunque un'incompatibilità. Sono due strumenti che si sovrappongono, quello dello spesometro e quello del redditometro, quindi tramite lo spesometro io determino le spese che sostieni, tramite il redditometro vado a determinare se le spese che tu dichiari sono compatibili rispetto a quelle che sono, diciamo, in qualche modo le tue spese. Allora a un certo punto, ecco, il quadro torna più chiaro se c'è un innalzamento del livello di trasparenza generale. Coinvolgo subito un ascoltatore che non si firma ma ci ha scritto al 349-238-6666 e dice: se c'è l'obbligo di pagamento tracciato sopra 500 euro, perché altra burocrazia inutile, scrive lui? Allora, l'obbligo di pagamento tracciato è da 1000 euro in su ed è stato appunto abbassato dal decreto Salva Italia. Questa comunicazione, cioè questo meccanismo, è precedente all'abbassamento ulteriore delle soglie di pagamento per il contante, perché lo spesometro di fatto è stato istituito nel 2010, ha avuto un periodo di decantazione piuttosto lungo, per cui la prima comunicazione è stata molto alta, sopra i 25.000 euro, e poi insomma parte a regime, diciamo, con questo adempimento di fine aprile. Chiaramente il pagamento in contanti è un modo per togliere la possibilità di nero. Questo diventa uno strumento ulteriore per cercare di intercettare le spese che comunque non sarebbero state comunicate nel caso in cui i micropagamenti vengano fatti sotto la soglia dei 1000 euro. Ecco, questo è il discorso. Bentornati a Salva Danaio, si parla di spesometro e redditometro con gli esperti che hanno curato la guida sull'argomento che trovate oggi con Il Sole 24 Ore in edicola, cioè Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore, e Benedetto Santa Croce, esperto in materia fiscale per lo stesso quotidiano. In breve, redditometro e spesometro sono due lenti di ingrandimento che permettono di tracciare due profili del contribuente, cioè quello che guadagna e quello che spende, e incrociarli per verificarne la coerenza. Il fisco si è organizzato per tracciare gli acquisti più sostanziosi e per questo aziende, negozi, professionisti, artigiani entro fine aprile devono comunicare all'Agenzia delle Entrate tutti gli acquisti di lusso, gioielli, automobili, viaggi effettuati dai loro clienti e quant'altro, il tutto a partire dal luglio dello scorso anno. Ne stiamo parlando rispondendo anche alle vostre domande in diretta, e devo dire che ne stanno arrivando tantissime via SMS al 349-238-6666, ma diamo la precedenza a Ernesta dalla provincia di Imperia, che ci fa sentire la sua voce attraverso il nostro numero verde 824-0024. Ernesta. Buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, per cortesia, una chiarezza. In una famiglia, diciamo, marito e moglie hanno due conti e fanno un acquisto, come è successo a noi che siamo andati a vedere per cambiare la macchina e c'era il mio libretto degli assegni, abbiamo fatto un assegno sul mio conto. Il saldo è stato fatto sul conto di mio marito facendo bonifico bancario. Adesso io dico, è una cosa che è normale per la tracciabilità, per questo, per quello. La storia di questi accertamenti che ovviamente mettono adesso delle pulci nelle orecchie delle persone, non è il nostro caso perché noi è tutto tracciabile, quindi è tutto sulla banca. Siete tranquilli, è però. Tutto. Sì, no, ma esatto, ma quando esistono due conti correnti, se si fanno due spese, se uno per esempio su un conto appoggia tutte le bollette, su quell'altro civile, come possono viaggiare, diciamo, questi controlli e queste cose? Grazie Ernesta. Perché una famiglia può avere due conti correnti. Sono molti casi, grazie Ernesta. Giovanni, tante cose. No, Roberto, ho un messaggio tranquillizzante, attenzione, perché altrimenti si pensa che siamo su uno stato di polizia tributaria e non è così. Arrivano messaggi in questo senso. Altrimenti è un messaggio in comando da non far passare. Chi ha tutto in regola, chi ha tutto a posto, non deve temere nulla. Una formula precauzionale, però mi sento di doverla dare, perché nel caso poi dovesse arrivare un controllo, ma per qualsiasi ragione, è meglio sempre conservare la documentazione di tutto. Questo è l'unica precauzione che mi sento di dare, insomma, però chi ha tutto in regola e tutto a posto, insomma, non temesse anche di spendere i soldi, perché altrimenti diventa uno stato in cui non già abbiamo tanti problemi di recessione, ecco, così si ferma l'economia. Invece questo non è assolutamente un meccanismo che vuole penalizzare le spese, vuole penalizzare le spese di chi acquista e fa shopping in maniera superiore rispetto al reddito che dichiara al fisco, non al reddito che ha. Quindi in qualche modo è un modo per frenare l'evasione fiscale, non un modo per costringerci a spendere di meno, anzi, siamo in questo momento. Rispondendo Ernesta. Rispondendo a Ernesta, insomma, da questo punto di vista, insomma, io, mi sembra di capire che forse lei avesse fatto un acquisto di un'automobile, sì, o no. Allora, per quanto riguarda lo spesometro, lo spesometro non riguarda l'obbligo di comunicazione per l'acquisto di automobili, perché in qualche modo l'acquisto di automobili è già tracciato precedentemente, cioè già comunicato all'anagrafe tributaria attraverso i canali del PRA. Quindi, insomma, nel suo caso c'è abbastanza da stare tranquilli. Ci sono una serie di esclusioni che appunto riguardano questo obbligo, ad esempio anche la compravendita di immobili non rientra in questa comunicazione. Quasi tutte le comunicazioni relative agli allacci di utenze domestiche, quindi energia elettrica, gas e acqua, perché sono già mappati e tracciati, già il fisco lo sa, già quindi, arrivano, insomma, quelli. Sappiamo questo. E poi un'altra cosa importante, ci sono poi degli esoneri che possono essere soggettivi. Mi sembra che anche dal forum che ha aperto la guida sia arrivata questa domanda. Ad esempio, i contribuenti minimi, chi sono i contribuenti minimi? Sono contribuenti che non realizzano più di 30.000 euro di ricavi e compensi all'anno, non sono chiamati a comunicare. Attenzione, perché la disciplina dei minimi è un po' cambiata dal 1 gennaio scorso, quindi chi è uscito dal regime dei minimi perché non rispetta più i nuovi parametri che sono stati previsti, quindi entra in un regime un po' più super semplificato, si chiama, per farla breve, comunicherà l'anno prossimo. Però quindi chi è nei minimi e resta nei minimi non comunica. Chi entra nel super semplificato da quest'anno dovrà comunicare le operazioni 2012 entro il 30 aprile 2013. Bene, così già risposto un altro ascoltatore che chiedeva informazioni proprio per chi si trova in regime dei minimi. Parliamo appunto anche dei contribuenti, perché in base ai dati raccolti, come si è detto, potrebbero essere attivati nei confronti delle persone fisiche eventuali accertamenti. La spia rossa, per la precisione, si accende nel caso in cui venga ricostruito un reddito superiore di un quinto del 20% rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, che al punto l'interessato può essere chiamato a un contraddittorio, deve comunque giustificare delle spese. Appunto, affrontiamo anche questo aspetto e credo che Lorenzo da Milano ce ne dia l'occasione. Lorenzo? Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo semplicemente fare una domanda, no? Siccome inerente proprio all'ultima cosa che state parlando adesso in trasmissione, in pratica sono soggetta a un accertamento per anni passati, perché in alcuni anni, dove io ho cambiato anche l'attività da dipendente, sono passato a commerciante, e risulta che io ho effettuato delle spese maggiori rispetto al mio reddito, e questo è chiaro, è dimostrabile, anche perché si riguarda acquisto di vetture e spese di carte di credito. Però la mia domanda è, ma scusate, avendo io una certa età e avendo lavorato dal 1982, avendo avuto, grazie a Dio, la possibilità di mettere da parte dei risparmi, ma perché io devo essere sottoposto all'accertamento se risulta che magari mi sono preso, che posso dire, un anno sabbatico, oppure non riuscivo a trovare lavoro e comunque per sostenere queste spese io ho utilizzato risparmi o soldi che mi sono stati prestati? Va bene, la ringrazio. Avvocato Santa Croce, parliamo di questo aspetto. In effetti, io posso essere un lavoratore dipendente con un reddito, come dire, modesto, comunque non ingente, però posso aver risparmiato nel corso della mia carriera. Questo è il tema del redditometro, poi, fondamentalmente, no? Cioè il concetto è che il redditometro, come è stato ricongegnato in modo particolare, cerca di andare a individuare le spese realizzate nel periodo d'imposta, quindi le spese del 2011 vengono monitorate. È evidente che questo meccanismo da redditometro produce come conseguenza il fatto che devo per forza chiamare il contribuente, perché probabilmente quelle spese non sono, come nel caso del radioascoltatore, non sono finanziate con reddito del periodo di imposta, ma sono sicuramente finanziate con redditi prodotti in periodi precedenti, specialmente quando si tratta di investimenti di un certo tipo, quindi l'immobile, la casa, la macchina e quant'altro. Allora, in quel caso, evidentemente il contribuente sarà chiamato a rispondere per andare appunto a dare le sue diciamo, la dimostrazione di come vengono finanziati. Però da questo punto di vista due osservazioni. La prima osservazione è che evidentemente deve cambiare un po' il comportamento dei contribuenti relativamente, come diceva giustamente prima Parente, il problema di andare a mantenere la documentazione e l'evidenza di queste operazioni. Ecco, a questo proposito, scusi, ma c'è un messaggio che dice: ma potreste specificare per quanto tempo si devono conservare i giustificativi? Dovremmo affittare un locale per sistemare i documenti? No, ecco, questo è un tema che ci ritorniamo sempre sul giornale, sul fatto che evidentemente mi sembra assurdo che dobbiamo fare dei bilanci di famiglia, che dobbiamo avere una contabilità di famiglia, eccetera, eccetera. Beh, è chiaro che però in ragione dei periodi di imposta noi abbiamo un limite, diciamo così, rappresentato dalla norma che ci impone per 5 anni di mantenere questi documenti. È chiaro che quello che è importante sono i documenti delle spese principali, non è che ci viene richiesto, ovvero evidentemente se l'operazione è tracciata e quindi viene effettuata non con dei mezzi non tracciabili, probabilmente la documentazione di base è rappresentata dall'estratto conto che molto spesso noi riceviamo e non guardiamo nemmeno, e invece sarebbe interessante nel momento in cui lo riceviamo, queste spese particolari che quindi impongono delle cose, metterci una notina sull'estratto conto e mantenere l'estratto conto potrebbe essere già una prima norma igienica, no? Dobbiamo andare veloce perché abbiamo tantissime domande, sì. Davvero rapidamente, se io sono appunto un lavoratore dipendente e decido di comprarmi una barca perché dopo 30 anni di risparmi ce la faccio, come faccio a dimostrare di aver risparmiato mese per mese come un'ape? Allora, non posso, nel senso che dovrò andare a determinarmi sostanzialmente il meccanismo con cui ho finanziato quella barca e dovrò andare in qualche modo a ricostruire non tanto l'investimento, cioè il reddito prodotto, ma quanto il finanziamento. Quindi se evidentemente avevo dei soldi in banca, se avevo fatto degli investimenti in banca e quindi quel piccolo risparmio si era configurato, evidentemente avrò la possibilità di dimostrarlo sulla base proprio del movimento bancario. Claudio dalla provincia di Bergamo, ben trovato a Salvadanaio. Buongiorno, una piccola considerazione. Io sono assolutamente d'accordo sul discorso dello spesometro e così via, perché da commerciante mi trovo spesso nella condizione di voler lavorare nel modo più chiaro, limpido possibile, ma proprio il cliente stesso, dal pensionato all'operaio di qualunque categoria sociale, insomma, ok, ti dicono va bene, ti faccio fare il lavoro, però non voglio la fattura, per schivare immediatamente il 20-21% di IVA. E questo spesso crea anche delle difficoltà a livello lavorativo, perché se tu non accetti, diciamo, di fare questa cosa, magari non so, va dal tuo concorrente che invece glielo fa. Quindi ecco, tutte queste azioni volte anche a scoraggiare l'utente finale, a chiedere che non venga fatta la fattura e così via, secondo me è assolutamente lodevole, insomma, perché se vogliamo porre un argine a questa situazione, ok, combattere le evasioni e, diciamo così, delle grandi aziende, così bisogna proprio partire, secondo me, dal piccolo, ecco, anche dal nostro piccolo, insomma. Bene, molte grazie al nostro ascoltatore. Sì, il problema dell'evasione, come sottolineava il nostro ascoltatore, è un problema di microevasione sostanzialmente, quindi ecco questo. E poi c'è un aspetto, Roberta, secondo me, dalla telefonata si evince, che è anche una distorsione del mercato, chi fa evasione, cioè chi può vendere a un prezzo più basso rispetto a un competitor che invece è in regola e comunque deve applicare tutte quante le imposte, crea un problema di distorsione del mercato. Stanno arrivando talmente tanti messaggi che non compaiono più i primi che sono stati mandati dagli ascoltatori, quindi andrò a memoria perché, insomma, mi piace rispondere alla persona che per prima ci ha scritto oggi e si riferiva a un viaggio organizzato da tante persone, no? Un viaggio pagato da più amici numerosi che vanno insieme e ce n'è uno solo che va a pagare l'agenzia di viaggio. Che succede in questo caso a questo malcapitato? In questo caso l'agenzia di viaggio, sempre che superi l'importo dei 3.600 euro, insomma, se non stiamo ragionando in quest'ottica, sì, dovrebbe essere identificato quello che è l'utente finale, però insomma su questo vorrei anche chiedere una conferma da Benedetto. Avvocato Santa Croce. Questo è, ovviamente l'abbiamo chiesto anche all'agenzia per avere un'idea un po' più chiara, e l'agenzia ci ha risposto chiaramente in questo modo, cioè se il pagamento avviene da uno e quindi poi il contratto, quindi la pratica e la fattura viene fatta a uno, a quello che paga, deve essere segnalato quello che paga. Sono molti gli ascoltatori che ritengono negativa questa iniziativa perché pensano disincentiverà ancora la ripresa, disincentiverà gli acquisti. Disincentivare è difficilissimo, sono riuscita a sbagliarlo per 3 volte. Comunque, insomma, molti ascoltatori la pensano così, sono critici verso questo spesometro. Sentiamo come la pensa Alessio da Pesaro. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare una domanda. Mi sono sposato quest'anno, chiaramente quando uno si sposa riceve dei regali, no? Soprattutto in soldi. Quindi ho un conto in comune con mia moglie dove sono girati dei soldi e poi abbiamo fatto una vacanza diciamo abbastanza costosa per quello che guadagno io, nel senso che io non sono dipendente, ho una piccola partita IVA e dichiaro tot. Di conseguenza non vorrei che questo giro di soldi vengono intesi come non so che cosa e quindi magari essere sottoposto a dei controlli che secondo me non so per quale motivo. Cioè, come posso fare a giustificare questa cosa qui, oppure basta di guardi, mi sono sposato quest'anno, gli devo presentare il certificato di matrimonio, non lo so. Giovanni Parente. Guardi, lei per sicurezza conservi tutto. Posso farle una domanda? Questi soldi che ha ricevuto li ha fatti magari transitare? C'è una, nel senso, perché le faccio questa domanda? C'è una tendenza ad istituire un conto nozze, no? Che può essere la soluzione più trasparente possibile. Lei ha utilizzato questa soluzione oppure i soldi le sono stati dati in contanti? Mi sono stati dati in contanti. Il giorno del matrimonio ho avuto una valigia di buste piene di soldi che poi dopo ho depositato in banca, ho aperto un conto insieme a mia moglie, ho depositato lì in banca. Quindi sono soldi che sono arrivati da tutti gli invitati, il problema è quello. Certo. No, dopo, anche c'è questo... anche il padre della mia moglie che è amministratore delegato, quindi è abbastanza benestante e lui ha pagato tutto il resto, diciamo, certo. Di conseguenza sono transitati diversi soldi e non vorrei che siano attribuiti a me, che non c'è, cioè, capito? Non, che sì, non sì, potrei anche permettermi questo... una cosa esatto. Del genere. Anche in questo caso, comunque, insomma, lei conservi comunque il fatto, insomma, conservi tutta l'argomentazione, il fatto che si è sposato, quindi in quei redditi, insomma, extra sono entrati nel momento in cui del suo matrimonio. Un piccolo suggerimento per chi non si è sposato ancora, magari evitiamo di far transitare i soldi in contante, istituiamo dei conti correnti anche dedicati specificamente al matrimonio, così tutto viene tracciato e non ci saranno problemi. Leggo un messaggio critico per tutti. Le persone, scrive Alberto da Udine, anche le più oneste hanno il terrore di fare acquisti di un certo tipo, poiché anche all'essere assolutamente onesti non basta. Le persone non vogliono essere segnalate perché poi alla fine hanno paura di finire in meccanismi che si scagliano contro il singolo. Le persone sono stufe di essere considerate colpevoli e di dimostrare la loro, e di dover dimostrare la loro innocenza. Sentiamo una domanda in diretta, poi torno ai messaggi. Dobbiamo essere molto veloci perché siamo quasi in chiusura. Andiamo nella provincia di Venezia da Marino. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, senta, il mio quesito era questo. Io nell'arco dell'anno 2011 ho fatto 2 contratti di noleggio separati però con lo stesso fornitore. Volevo sapere come devo indicarli, nel senso, siccome sono contratti periodici, devo indicarli in maniera separata oppure si possono accumulare anche se sono 2 contratti a sé stanti? Uno è terminato ad aprile e l'altro è iniziato ad agosto ed è in corso tutt'oggi. Ecco, una domanda per Benedetto Santa Croce. Allora, innanzitutto bisogna chiarire la soglia per precisione. Comunque l'effetto di 2 noleggi separati, come ci ha risposto l'Agenzia delle Entrate proprio a dicembre di quest'anno, possono rimanere separati, per cui possono essere dichiarati come 2 operazioni separate. Ovviamente a condizione poi che evidentemente abbiano tutte e due superato la soglia, se siamo all'interno di un'attività di impresa, quindi chi sta effettuando il noleggio lo sta facendo nell'attività di impresa con la soglia dei 3.000 euro, mentre evidentemente se il noleggio viene fatto da un privato il problema è di 3.600, ma solo evidentemente per il concedente. Quindi, ipotizzando che abbiamo superato i 3.000 euro e che siamo all'interno dell'attività di impresa, il contribuente può tranquillamente dichiararli separatamente, indicandoli ovviamente in 2 righe di dettaglio separate. E ci sono diverse persone che ci scrivono o ci dicono di tenere i soldi in casa. Uno di questi è Gioacchino della provincia di Salerno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie Gioacchino, velocissimo perché siamo in chiusura. E l'unica l'unica domanda che vorrei fare è questa: io ho lavorato una vita intera, adesso non lavoro perché non mi sento più di lavorare, tengo dei soldi in casa, non li voglio portare categoricamente in banca perché voglio tenere la disponibilità sempre contante. Perché devo essere vessato in questo modo se vado a fare delle spese? Come faccio a dimostrare se mi voglio comprare una macchina o qualche altra cosa? No, a parte che se lei ha guadagnato e ha messo da parte i soldi, non è che abbia nulla da temere. Ecco, questo è un messaggio che però è rivolto un po' a tutti. Se vuole comprare una macchina, però sappia che non può pagare più di 1000 euro in contanti. Comunque questo già da 1000 euro insomma scatta la soglia, per cui i pagamenti in contanti sono ormai vietati, quindi bisognerà comunque far tracciare un passaggio di denaro attraverso degli strumenti in qualche quindi modo riconducibili alle banche, esatto, che il nostro ascoltatore esatto. Non ama molto, mi sembra di capire. Esatto. Marcella scrive: ho una pensione molto bassa e ho avuto una liquidazione molto alta e intendo spendermela tutta. Lo spesometro mi darà scocciature? Sentiamo l'avvocato Santa Croce? Ma il discorso mi sembra che gira tutto sempre intorno alla stessa situazione, cioè io posso spendere tutto, non è un problema, il concetto di fondo è rappresentato dalla tracciabilità originale e dalla fonte del reddito, per cui sostanzialmente nel momento in cui la fonte del reddito è legittima io posso tranquillamente utilizzarlo. Ovviamente, come dicevamo prima, qui c'è un cortocircuito in generale tra l'obbligo di pagare in contanti fino a 1000 euro e gli obblighi poi di segnalazione che avvengono attraverso appunto i commercianti che vendono dei beni. Questo c'è un vero e proprio cortocircuito tra i due, però io posso sicuramente utilizzarli con quel limite di dire cerchiamo di renderli sempre più tracciabili. Vuoi aggiungere qualcosa, Giovanni? Sì, volevo aggiungere una cosa, Roberta. Questa iniziativa di oggi, sulle 24 ore, ho visto anche tante le tante domande che stanno arrivando. È un'iniziativa che durerà ancora per alcuni giorni. Quindi oggi continuate a mandare le domande al forum online www.ilsole24ore.com/spesometro. Da domani le prime risposte sul quotidiano, poi le risposte disponibili nei prossimi giorni. Inoltre, da domani è disponibile anche la guida online con tanti contenuti extra, con degli approfondimenti che possono aiutare sia i contribuenti che i commercianti e gli altri operatori. E mercoledì c'è la video chat dalle 15 alle 16 sul sito del Sole 24 Ore. Sì, noi abbiamo esaurito il tempo, però ci sono i dettagli sulla guida e poi anche sul sito del sole24ore.com/spesometro, quindi potete continuare a mandare le vostre domande. Grazie Giovanni Parente. Grazie. E grazie Benedetto Santa Croce per essere stato con noi. E voi un saluto. Prima dei saluti finali, l'appuntamento con le pillole sulla previdenza realizzate in collaborazione con l'INPS e pensate per spiegare il funzionamento dell'ultima riforma delle pensioni. Oggi inauguriamo un nuovo tema che seguiremo per tutta la settimana, cioè donne e pensioni. Pensioni, le novità della riforma in collaborazione con INPS. Come cambia l'età pensionabile e dunque la pensione di vecchiaia per le donne? Dal 1 gennaio scorso le donne, come gli uomini, per avere diritto alla pensione di vecchiaia devono aver raggiunto una certa età, la cosiddetta età pensionabile, e aver maturato un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. L'età pensionabile per le donne è fissata per il 2012 a 66 anni se sono dipendenti pubbliche, a 62 se sono dipendenti del settore privato e a 63 anni e 6 mesi se sono lavoratrici autonome. L'età pensionabile delle dipendenti private e delle lavoratrici autonome cresce negli anni successivi fino ad arrivare nel 2018 a 66 anni, che sarà la soglia uniforme per tutti a quella data. È tutto, grazie a Marco Lombardo in redazione, Roberto Scaltritti in regia, a voi per l'ascolto. Adesso arriva GR24, una buona giornata da Roberta Pellegatta.